did wanna be stronger. You know, can't always just feel fine. This fear's the reason all my tears. Today, the reason all my life. You know it's not gonna take longer. This time, just wanted to be right. This fear's a prison for my tears. Today, a reason for my life. Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca con voi, e lo ricordo, stasera ospiti Violet Gibson. Ascolteremo sei brani del CD American Circus, come il primo che è andato in onda. Titolo? Il primo pezzo che abbiamo ascoltato è Go Ahead, che apre il nostro album, ed è il pezzo, forse non dico più rappresentativo, perché alla fine ogni pezzo ha il suo perché all'interno del nostro album, però forse quello più d'impatto e che al momento nelle nostre esibizioni live è quello che ci dà più carica, forse. Bene. La vostra esperienza durante le registrazioni e quali sono le linee guida che hanno tracciato questo album? Allora, il nostro tragitto nei vari studi di registrazione è stato, se non altro, originale, perché anche grazie alla tecnologia che ci è venuta incontro, diciamo che ognuno è partito nel suo home studio e poi abbiamo trasferito file avanti e indietro tra Emilia Romagna, Ravenna, Parma, batterie montate da una parte, chitarre riamplificate da un'altra, e poi tutto il gregge si è riunito per essere mixato, e alla fine, come per magia, sono uscite delle canzoni che suonano anche bene. La prossima canzone per i nostri ascoltatori. La prossima canzone è la title track dell'album, quindi per tutti voi, American Circus. I took a walk, I met a liar. I was a friend and the war's on fire. The way we live can only fade away. So take a ride in American circus. I can see you face to face, and we'll be friends in American circus. Will you send me an SOS? I walked inside, I took my number. I was surrounded by gorgeous numbers. They took my blood, they took my fire. My real estate was the real desire. Why am I trusting you? The smile of your shaking hands is the mask of your faking truth. So take a ride in American circus. I can see you face to face, and we'll be friends in American circus. Studio ancora con i Violet Gibson, capitolo recensioni musicali, quelle le più importanti, che cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa i recensori hanno puntualizzato. Ma ti devo spiazzare, perché l'album è talmente fresco di stampa che ancora non abbiamo recensioni. Probabilmente questa, se non è la prima, è la seconda radio che frequentiamo e presentiamo l'album, per cui è praticamente un'anteprima. Per adesso i riscontri più che altro li abbiamo avuti live, e anche quello che è il semplice merchandising, certo, che si svolge, esatto, a fine concerto, vedo che ci dà grandi soddisfazioni. Anzi, guadagniamo più dal merchandising che dal cachet della serata, quindi immaginate che cachet bene, che abbiamo. Bene, ottimo. Prossima canzone. Prossima canzone, proprio per dare dinamica e far capire anche che insomma bene la distorsione, ma magari non sempre, ci rilassiamo un attimo con la traccia forse più tranquilla dell'album, She Feels Alive. Torneremo breve per la quarta parte di Rock Legends con i Violet Gibson, rimanete ancora su Radio RCS. When you feel